La vergogna dell'umanità, la guerra, conflitto, vendetta, nessuno si ferma. Guerra civile o guerra mondiale, l'umano combatte, fa star male. Milioni di civili, magari bombardati, stoppate la pace perché i capi degli stati non vanno d'accordo come bambini e fratelli. Ma poi arrivano ai coltelli. Uomo brami potere, sei egoista. Per raggiungere il traguardo butteresti fuori pista. Nemico vuoi armi più forti e sleali. Ogni mezzo va bene, anche gli animali. Ma perché combatti? Dimmi cosa guadagni. Anche i tuoi soldati perdono solo compagni. Per la pace basta amore, un po' di tolleranza. Ma di un mondo senza guerra ormai vaga la speranza. Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. Ahimè, questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di guerra. Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. Ahimè, questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di guerra. Una goccia può far traboccare il vaso. Tutto stabilito per accade per caso. Un tiranno scappa come un evaso. Arriva alla cima e noi diventiamo il puzzle. Il comando stimato da 3-4 pazzoli. Sfrutta la popolazione dei menanni ricordi. Senza un briciolo di cuore inizia la strage. Dichiara guerra a te perché non lo lasci in pace. Minacce che diventano effettive. Bombe atomiche non sarebbero le prime. Attento a quel che fai, bassa la cresta. Potrebbe caderti un little boy in testa. Ancora più perfido, un'epidemia. Ti manda un virus contagio. Ogni via la tua città, il tuo stato, tutto infestato. E questo perché? Ma te lo sei domandato? Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. E questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di guerra. Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. E questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di guerra. Potessi fermare questa situazione, mettere una fine ad ogni alluvione. Sono solo un uomo, cosa penso di fare? Spero solo che qualcuno mi riesca ad ascoltare. Uomo, apri gli occhi, volgiti alla pace che ti costa una tregua. Non ne sei capace. Purtroppo non si può, non ci sono regole. La legge è il più forte, mangia il più debole. Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. E questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di guerra. Questo mondo è colmo d'odio. Proprio questo è il mondo in cui vivo. E questo è un mondo di merda. Perché questo è un mondo di